Capitolo 11. Il ciclo della vita. Anna ritornò ad Avonlea con l'aureola della borsa di studio vinta che le splendeva sul capo. La gente osservò che non era cambiata, con un tono che mal dissimulava una certa sorpresa e anche un po' di disappunto perché non lo era. D'altro canto, anche Avonlea non era cambiata, almeno così sembrava a un primo sguardo. Ma quando Anna si fu seduta, la domenica successiva al suo ritorno al banco di famiglia di Green Gables, notò alcuni piccoli cambiamenti che le fecero comprendere come il tempo non si fosse congelato, nemmeno ad Avonlea. Sul pulpito c'era un nuovo pastore. Dai banchi era scomparso per sempre più di un volto familiare, il vecchio zio Abe con il suo profetare ormai spento. La moglie di Peter Sloane, che aveva sospirato, c'era da aspirare per l'ultima volta. Timothy Cotton, che, come la signora Rachel Lynde aveva avuto modo di dire, si era infine deciso ad esalare l'ultimo respiro dopo averci provato per 20 anni. Il vecchio Josiah Sloane, che nessuno riusciva a riconoscere nella bara poiché aveva i mustacchi graziosamente spuntati. Tutti dormivano il sonno eterno nel cimitero dietro la chiesa e Billy Andrews era sposato con Nettie Blewey. Fecero la loro uscita ufficiale proprio quella domenica, quando Billy, raggiante di orgoglio e felicità, mise in mostra la sua sposa impiumata e avvolta in sete nel banco di Harmon Andrews. Anna abbassò le palpebre per nascondere lo scintillio birichino degli occhi. Ricordava quella tempestosa notte d'inverno durante le vacanze di Natale, quando Jane aveva avanzato la proposta di Billy invece sua. Il rifiuto di lei non gli aveva certamente infranto il cuore. Anna si domandò se fosse stata ancora Jane ad avanzare a Nettie la proposta per Billy, oppure se lui avesse acquistato tanto sangue freddo da porre personalmente la fatale domanda. Tutti gli Andrews sembravano dividere con lui l'orgoglio e la felicità, dalla signora Harmon, seduta nel banco, a Jane, occhieggiante nel coro. Jane aveva rassegnato le dimissioni dalla scuola di Avonlea e intendeva recarsi nel West in autunno. «Non ha potuto trovarsi un fidanzato ad Avonlea? Che diamine!» commentò sdegnosamente la signora Rachel Lynde. «Dice che potrà godere di miglior salute nell'aperto West, ma non ho mai sentito prima d'ora che la sua salute fosse precaria». Jane è una brava ragazza, disse lealmente Anna. Non ha mai cercato di attirare l'attenzione come fanno altre. Oh, non ha mai stuzzicato i ragazzi, se è questo che intendi, disse la signora Rachel. Ma le sarebbe piaciuto sposarsi, proprio come a qualsiasi altra. Che diamine! Che altro potrebbe attirarla in un solitario posto dell'aperto West se non il fatto che le donne sono scarse e gli uomini numerosi? Ah, non dirmi. Ma non fu in direzione di Jane che Anna lanciò occhiate cariche di sorpresa e di sgomento. L'oggetto della sua curiosità era Ruby Gillis, che le sedeva accanto nel coro. Che cosa era mai successo a Ruby? Era più bella che mai, ma i suoi occhi azzurri erano troppo lucidi e scintillanti e le sue guance erano di una luminosità febbrile. Era anche estremamente sottile e le mani che reggevano il libro degli inni erano quasi trasparenti nella loro fragilità. «È malata, Ruby Gillis?» domandò Anna alla signora Lynde come giunsero a casa dalla chiesa. «Ruby Gillis sta per morire di tisi galoppante», disse schiettamente la signora Lynde. «Lo sanno tutti, tranne lei e la sua famiglia. Loro non vogliono arrendersi. Se domandi a loro, lei sta perfettamente bene». «Non ha più potuto insegnare da quando ha avuto il primo attacco quest'inverno, ma lei dice che riprenderà in autunno e sta cercando di entrare alla scuola di White Sands. Quando la scuola di White Sands aprirà i battenti, lei sarà ormai nella tomba, povera ragazza». Anna ascoltò in un silenzio sgomento. Ruby Gillis, la sua vecchia compagna di scuola, era moribonda. Era mai possibile? Da molti anni avevano vite separate, ma esisteva sempre l'antico legame dell'amicizia scolastica. E si faceva sentire, vivo e dolorante, nello strazio che la notizia aveva destato nelle più intime fibre del cuore di Anna. Ruby, la brillante, la felice, la civetta Ruby. Era impossibile associare il pensiero di lei a qualcosa come la morte. Dopo la funzione aveva accolto Anna con gioiosa cordialità. Doveva a tutti i costi andare a farle visita la sera successiva. Sarò fuori martedì e mercoledì sera, disse Ryubi con aria trionfante. C'è un concerto a Carmody e un ricevimento a White Sands. Verrà a prendermi Herb Spencer. È la mia ultima fiamma. Fai in modo di venire domani sera. Muoio dalla voglia di fare una bella chiacchierata con te. Voglio sapere tutto di quello che fai a Redmond. Anna comprese che Ryubi intendeva raccontarle tutto sulle sue recenti avventure amorose, ma promise di andare e Diana si offrì di accompagnarla. Ho aspettato a lungo prima di andare a trovare Ryubi, disse Diana ad Anna quando uscirono da Green Gables la sera seguente, ma davvero non avevo il coraggio di andarci da sola. È così struggente sentirla chiacchierare in continuazione come fa, fingendo di non avere problemi, nemmeno quando riesce a malapena a parlare a causa della tosse. Sta lottando con tutte le sue forze per rimanere in vita, ma dicono che non ha alcuna probabilità di farcela. Le ragazze scendevano lungo la strada risplendente della luce rossa del tramonto. I pettirossi intessevano i canti della sera sulle alte cime degli alberi, colmando l'aria dorata delle loro voci festanti. Dagli stagni e dalle paludi giungeva il trillo argentino delle rane. Nei campi i semi avevano cominciato a prender vita, rispondendo alla luce del sole e alla pioggia che li aveva fecondati. L'aria era fragrante del dolce, selvaggio e intatto profumo dei cespugli di giovani lamponi. Bianche nebbie si libravano nelle valli silenziose e stelle viola dai riflessi azzurrini splendevano sulle sponde dei ruscelli. «Che meraviglioso tramonto!» disse Diana. «Guarda, Anna!» Sembra un mondo a sé, non ti pare? Quel lento, lungo banco di nebbie rossastre è un terreno infuocato e sullo sfondo il cielo chiaro è come un mare d'oro. Se potessimo salpare verso quella terra, nella barca del chiar di luna, di cui Paul scrisse nel suo vecchio componimento, ricordi? Quanto sarebbe bello, disse Anna, sorgendo dal suo sogno. Credi che lassù potremmo ritrovare tutti i nostri ieri, Diana? Le nostre vecchie primavere, i nostri fiori in boccio, nei letti di fiori visti da Paul. C'erano le rose che in passato sono sbocciate per noi. Smettila, esclamò Diana. Mi fai sentire come se fossimo vecchie signore che non hanno più nulla davanti a sé. È così che mi sento da quando ho saputo della povera Ruby, disse Anna. Se è vero che lei sta per morire, allora qualsiasi altra cosa triste può diventare realtà. Ti spiace se passiamo un attimo da Elisha Wright? Mia madre mi ha chiesto di lasciarle questo piattino di gelatina per zia Atossa. E chi è zia Atossa? Non lo sai? È la moglie di Samson Coates di Spencer Vale, zia della signora Elisha Wright. È zia di mio padre anche. Suo marito è morto l'inverno scorso e da allora si sente infelice e sola, sicché i Wright le hanno chiesto di andare a stare con loro. Mia madre pensava che fosse giusto prenderla con noi, ma mio padre si è opposto. Non intende affatto vivere con zia Tossa. È così terribile? Domandò Anna con aria assente. Probabilmente ti renderai conto di com'è prima che ce ne andiamo, disse Diana in tono significativo. Mio padre dice che ha una faccia affilata come un'accetta, taglia a fette anche l'aria, ma la lingua è ancora più acuminata. Tardi com'era, zia Tossa stava sbucciando una quantità di patate nella cucina dei Wright. Indossava un vecchio grembiule estinto e i suoi capelli grigi erano decisamente arruffati. Alla zia non piacque affatto venir colta in uno stato di grazia e si diede quindi da fare per essere sgradevole. Così, tu saresti Anna Shirley? Disse appena Diana l'ebbe presentata. Ho sentito parlare di te. Il tono implicava che non aveva udito niente di buono. La signora Andrews mi ha detto che è ritornata a casa, mi ha anche detto che sei molto migliorata. Non c'era dubbio che zia Tossa fosse convinta che in lei ci fosse ancora molto spazio per migliorie più radicali. Non smise un attimo di tagliar patate con grande energia. È proprio necessario che vi chieda di sedervi? Si informò caustica. Naturalmente non c'è nulla di veramente attraente per voi in questo luogo, gli altri sono tutti fuori. Mia madre ti manda questo piattino di gelatina di rabarbaro, disse gentilmente Diana. L'ha fatta proprio oggi e ha pensato che ne avresti gradito un assaggio. Oh, grazie, disse zia Tossa di mala grazia. Non mi viene mai voglia di assaggiare la gelatina che fa tua madre. La fa sempre troppo dolce. In ogni caso, mi sforzerò di mandarne giù un pochino. Questa primavera il mio appetito è stato spaventosamente scarso. Sono ben lungi dallo star bene. Continuò poi solennemente. Ma cerco di darmi una scossa. Qui non è gradito chi non fatica. Se non vi è di troppo disturbo, sareste così condiscendenti da mettere quella gelatina nella dispensa? Io sono nei pasticci, visto che devo pelare tutte queste patate per stasera. Suppongo che voi due madamine non vi siate mai sognate di fare cose di questo genere. Vi terrorizzerebbe l'idea di sciuparvi le mani. Io pelavo patate prima ancora che affittassimo la fattoria, sorrise Anna. Io lo faccio ancora, rise Diana. Ne ho sbucciato un mucchio 3 giorni fa. Naturalmente, soggiunse provocatoria, ho immerso le mani in succo di limone e ho indossato dei guanti ogni sera dopo averlo fatto. Zia Tossa sbuffò. Penso che tu abbia seguito i consigli di uno di quegli sciocchi giornaletti di cui sei solita fare indigestione. Mi stupisce che tua madre te lo permetta. Quando Giorgia l'ha sposata, tutti noi abbiamo pensato che non sarebbe stata la moglie giusta per lui. Zia Tossa sospirò pesantemente, come se tutti i presagi sulle sorti del matrimonio di George Berry si fossero largamente e tristemente avverati. Sicché ve ne andate, indagò quando le ragazze si alzarono in piedi. Figuriamoci, non è divertente stare a parlare con una vecchia come me. È un vero peccato che i ragazzi non siano in casa. Dobbiamo correre da Ruby Gillis per fermarci un poco con lei, spiegò Diana. Tutte le scuse sono buone, naturalmente, ribatté zia Tossa amabile. Solo una capatina dentro, giusto per dire come stai, e già la testa è fuori. Si respira aria di università. Sarebbe saggio che vi teneste alla larga da Ruby Gillis. I dottori dicono che la tisi è contagiosa. Io ho subito pensato che Ruby si sarebbe presa qualcosa dall'autunno scorso, quando se n'è andata a fare un giro a Boston. La gente che non è contenta di starsene a casa si becca sempre qualcosa. Anche la gente che non va in giro si ammala di frequente, talvolta muore persino, sentenziò solennemente Diana. Almeno non ha nulla da rimproverarsi, ribatté trionfalmente zia Tossa. Ho sentito che ti sposerai in giugno, Diana. Oh, è una voce che non ha nulla di vero, replicò arrossendo Diana. Bene, non metterci troppo, rimbeccò significativamente zia Tossa. Sei destinata a sfiorire presto. La tua bellezza è tutta nella carnagione e nei capelli, e i Wright sono decisamente incostanti. Tu dovresti portare un cappello, signorina Shirley. Il tuo naso è coperto di lentiggini in maniera orripilante, figuriamoci. Sei rossa di capelli. Beh, siamo tutti come nostro signore ci ha fatti. Porgi i miei rispetti a Marilla Cuthbert. Lei non è mai venuta a vedermi da quando sono ad Avonlea, ma suppongo di non avere il diritto di lamentarmi. I Cuthbert hanno sempre ritenuto di essere un gradino più su degli altri. Non è una punizione divina, boccheggiò Diana appena furono scappate in strada. È ancora peggio della signorina Eliza Andrews, disse Anna. Ma prova a pensare di vivere tutta la vita con un nome come Atossa. Non credi che sarebbe terribile? Avrebbe dovuto far finta di chiamarsi Cordelia. L'avrebbe aiutata un mucchio. Certamente ha aiutato me il tempo in cui non amavo chiamarmi Anna. Josie Pye diventerà proprio come lei quando sarà cresciuta, disse Diana. La madre di Josie e zia Tossa sono cugine, lo sai? Oh, mia cara, sono felice che sia finita. È così maligna che riesce a rendere sgradevole tutto ciò che tocca. Mio padre mi ha raccontato su di lei un aneddoto così buffo. Una volta avevano a Spencer Vale un pastore magnifico, di grande spiritualità, ma sordo. Non poteva sentire nessuna conversazione normale. Bene, erano soliti tenere un incontro di preghiera la domenica sera e tutti i membri della chiesa dovevano alzarsi a turno e dire alcune parole su un versetto della Bibbia. Ma una sera zia Tossa balzò in piedi, non pregò e non predicò nulla. Si scagliò invece contro tutti i presenti e fece a tutti una spaventosa lavata di capo, chiamandoli per nome, rinfacciando a ciascuno come si era comportato e andando a rivangare le beghe e gli scandali degli ultimi 10 anni. Alla fine concluse dicendo che era disgustata dalla chiesa di Spencer Vale e che non intendeva varcarne ancora la porta e che invocava su di essa una terribile punizione divina. Poi si sedette senza fiato e il pastore, che non aveva potuto udire nemmeno una parola di quanto aveva detto, replicò immediatamente, in tono carico di devozione, «Amen! Il Signore esaudisca la preghiera della nostra cara sorella!» Avresti dovuto sentire mio padre quando raccontava la storia. A proposito di storie, Diana, ribatté Anna con voce confidenziale e allusiva, sai che recentemente mi sono chiesta se sarei in grado di scrivere un raccontino abbastanza bello da meritare di venir pubblicato? Oh, ma certo che lo sei! Esclamò Diana di fronte a quella stupefacente dichiarazione. Scrivevi dei magnifici raccontini gialli anni fa nel nostro vecchio club di scrittura. Beh, non intendevo esattamente quel genere di racconti, sorrise Anna. Pensavo a qualcosa di un po' più ambizioso, sai, ma ho quasi paura di tentare perché se fallissi mi sentirei davvero umiliata. Ho sentito dire una volta da Priscilla che tutti i primi racconti della signora Morgan sono stati rifiutati, ma sono certa che i tuoi non lo sarebbero perché c'è da supporre che i direttori di riviste oggi abbiano più buon senso. Margaret Burton, una delle junior di Redmond, ha scritto un racconto l'inverno scorso ed è stato pubblicato sul Canadian Woman. Io penso seriamente che potrei scriverne uno altrettanto buono. E vorresti che venisse pubblicato sul Canadian Woman? Potrei provare prima su una rivista più importante, dipende da che genere di racconto scrivo. E di che cosa dovrebbe trattare? Non lo so ancora, vorrei che avesse un buon intreccio. Penso che sia la cosa a cui i direttori delle riviste badano di più. L'unica cosa che ho deciso è il nome dell'eroina. Deve chiamarsi Avery Lester. Piuttosto graziosa, non ti pare? Non dirlo a nessuno, Diana. Non ne ho parlato a nessuno tranne che a te e al signor Harrison. Lui non è stato granché incoraggiante. Ha detto che al giorno d'oggi si scrivono troppe porcherie e che da me si sarebbe aspettato qualcosa di meglio dopo un anno di università. Ma che cosa sa di preciso il signor Harrison del tuo progetto? Domandò risentita Diana. Trovarono la casa dei Gillis allietata da luci e da ospiti. Leonard Kimball di Spencer Vale e Morgan Bell di Carmody si guardavano in cagnesco dai lati opposti del salotto. Alcune ragazze spigliate erano capitate là per una breve visita. Ruby era vestita di bianco e aveva occhi e guance splendenti. Rideva e chiacchierava senza posa e quando le altre ragazze si furono congedate, condusse Anna al piano superiore per mostrarle i suoi nuovi abiti estivi. Ho anche un taglio di seta azzurra per confezionare un vestito, ma è un po' troppo pesante per l'estate e credo che lo lascerò per l'autunno. Andrò a insegnare a White Sands, sai? Ti piace il mio cappello? Quello che indossavi ieri in chiesa era davvero carino, ma su di me preferisco qualcosa di più appariscente. Hai notato quei due sciocchi ragazzi da basso? Sono decisi a farsi fuori a vicenda. A me non importa un fico secco di nessuno dei due, sai? Mi piace Herb Spencer e talvolta penso che sia lui quello giusto. A Natale pensavo che lo fosse il maestro di Spencervale, ma poi ho scoperto in lui qualcosa che mi ha fatto cambiare idea. Lui a momenti andava fuori di testa per il mio rifiuto. Avrei preferito che quei due ragazzi non fossero venuti stasera. Volevo fare una lunga chiacchierata con te, Anna, e dirti un mucchio di cose. Noi due siamo sempre state ottime amiche, non è vero? Ruby allacciò con il braccio la vita di Anna ed emise una risatina roca. Ma solo per un istante i loro occhi si incontrarono e sotto lo splendore di quelli di Ruby Anna lesse qualcosa che le provocò una stretta al cuore. Vieni spesso, Anna. Lo farai? Sussurrò Ruby. Vieni sola, io voglio te. Ti senti bene, Ruby? Come no, perché? Certo che sto bene. Benissimo, non mi sono mai sentita meglio in vita mia. Certo, la congestione dell'inverno scorso mi ha buttata un po' giù, ma guarda solo il mio colorito, non mi pare di avere l'aria di una che sta male. La voce di Ruby si era fatta acuta. Sciolse il braccio dalla vita di Anna, come risentita. E corse da basso, dove si mostrò più allegra che mai. Sembrava talmente assorta a farsi beffe dei due cicisbei che Diana e Anna si sentirono a disagio e si congedarono presto.